Benvenute e benvenuti all'ascolto di questo approfondimento speciale in occasione del sesto anniversario della seconda intifada, l'intifada di Al-Aqsa, a cura dell'agenzia giornalistica Amisnet. Cercheremo di ripercorrere insieme questi sei anni difficili, di fotografare la situazione attuale e di immaginare gli scenari futuri del conflitto arabo-israeliano. Secondo gli accordi di Oslo del 93, che avevano portato alla nascita dell'autorità nazionale palestinese e scritto la parola fine sulla prima intifada, la rivolta delle pietre, il 2000 doveva essere l'anno della nascita dello Stato palestinese. Quello fu invece l'anno della morte del processo di pace, che fu seppellito con il fallimento del summit di Camp David, con quello che per gli israeliani fu il gran rifiuto di Arafat alla proposta di una pace definitiva dell'allora premier israeliano Ehud Barak. La proposta, che in effetti era la più generosa mai fatta da Tel Aviv, prevedeva uno Stato palestinese che comprendesse la striscia di Gaza e meno della metà del territorio cisgiordano delimitato dalla linea verde, cioè dal confine del 67. Ma a determinare il rifiuto di Arafat, oltre alle questioni territoriali, furono l'esclusione dei palestinesi da Gerusalemme e il mancato riconoscimento del diritto al ritorno dei profughi palestinesi all'estero. Nel 2000 il clima in Medio Oriente era quindi di sfiducia reciproca e di grande frustrazione, ma la scintilla che fece divampare il fuoco che covava sotto le ceneri del processo di pace fu la famosa provocazione del generale Ariel Sharon con la sua famigerata passeggiata sulla spianata delle moschee, terzo luogo sacro per l'Islam. Ascoltiamo quindi una breve cronologia dei principali eventi di questi sei anni dell'intifada di Al-Aqsa nella nostra scheda. Sono passati sei anni da quel 28 settembre del 2000 quando il leader della destra israeliana Ariel Sharon si reca a passeggiare con tanto di scarpe chiodate alla spianata delle moschee di Gerusalemme, uno dei tre principali luoghi sacri dell'Islam in cui il profeta Maometto sarebbe asceso al cielo. Il gesto di Sharon, intenzionalmente mirato a dimostrare la volontà di annettere tutta Gerusalemme ad Israele, trova subito accoglienza da parte della destra israeliana più estremista, che coglie nel gesto del falco l'aprirsi della possibilità di cercare il sacro tempio di Salomone, in cui i resti, il famoso muro del pianto, sono proprio a ridosso della spianata delle moschee. Il gesto vale anche a Sharon la vittoria alle successive elezioni del 2001, ma anche l'inizio della seconda intifada, ancora in corso. Nello stesso anno il neoletto Sharon chiude il dialogo con i palestinesi, dichiarando inaffidabile Arafat ed accusandolo di connivenza con il terrorismo, e poi un susseguirsi di attentati, suicidi, rappresaglie sanguinose fino al dicembre del 2001, quando Yasser Arafat viene assediato nel suo quartier generale a Ramallah. Nel marzo del 2002 si fa sentire l'ONU, che approva una risoluzione che chiede l'immediata cessazione delle violenze e riafferma la soluzione dei due stati come unica praticabile. Tuttavia gli attentati proseguono, soprattutto con azioni suicide, a cui Israele risponde lanciando la più grande offensiva dalla guerra del 67, l'operazione Scudo di difesa. Truppe israeliane occupano Betlemme e guerriglieri palestinesi si asserragliano nella chiesa della Natività, fino alla sanguinosa battaglia nel campo profughi di Jenin. Sempre nello stesso anno Israele inizia la costruzione del muro che definisce barriera difensiva lungo una buona parte dei confini del 67, ma con larghe deviazioni che includono Gerusalemme e le colonie israeliane in territorio palestinese, spezzettandolo. Per i palestinesi la barriera difensiva diventa il muro dell'apartheid. Il 2003 è un altro anno di sangue, con attentati suicidi in autobus e nei ristoranti israeliani e durissime rappresaglie. Nel 2004 Arafat esce per la prima e ultima volta dal suo isolamento forzato a Ramallah per raggiungere una clinica di Parigi, in cui morirà il 4 novembre. Il nuovo leader palestinese è Mahmoud Abbas, detto Abu Mazen. Arriviamo al 2005, quando nel mese di agosto il governo israeliano, guidato da Sharon, dispone l'evacuazione della popolazione israeliana dalla striscia di Gaza, lo smantellamento delle colonie che vi sono state costruite illegalmente, riaprendo così la strada degli accordi di Oslo, che prevedevano la sovranità dell'autorità nazionale palestinese anche in quei territori. E arriviamo ad oggi, al 2006, che si apre con il trionfo elettorale nei territori occupati palestinesi e nella striscia di Gaza del partito radicale islamico Hamas, che non riconosce lo Stato israeliano. La seconda intifada di questi ultimi mesi dell'anno prosegue con Ariel Sharon, il protagonista di quella passeggiata alla spianata delle moschee di sei anni fa, in coma irreversibile per un ictus. Il bilancio delle vittime aggiornato a quest'anno, a metà luglio, è di 1.007 morti israeliani e di 4.104 morti palestinesi. Da segnalare infine 1.666 refusnik, militari israeliani che rifiutano di svolgere attività nei territori occupati. L'intifada di Al-Aqsa è la seconda, segue quella che attraversò i territori palestinesi tra l'87 e il 92. Intifada in arabo indica l'operazione di scrollarsi dosso qualcosa, di scuotersi, e con questo termine i palestinesi indicano il loro intento di scrollarsi di dosso l'occupazione israeliana. Ma per capire meglio quali sono le differenze tra le due fasi storiche che chiamiamo intifada, abbiamo chiesto l'aiuto di Giancarlo Pacello, autore di molti libri ed articoli sulla storia palestinese, tra cui La Nuova Intifada. Il nome è l'intento dei palestinesi di opporsi e di rispondere a questa occupazione militare, quindi questo è l'unico elemento che unisce i due movimenti. Il primo è una rivolta spontanea appunto dei palestinesi dell'interno che avevano accettato la lotta che facevano i fedayin, ma dall'esterno, e che però maturano direttamente l'esigenza di ribellarsi a questa condizione, ormai nell'86. La prima intifada, quindi sono 20 anni di occupazione militare. L'altra rivolta ha secondo me degli elementi invece di maggiore coscienza, ma anche di maggiore disperazione, cioè nasce quando c'è stato il fallimento di quella che era stata comunque una speranza dei palestinesi, il processo di pace. C'è la provocazione di Sharon, la famosa passeggiata con le scarpe chiodate nella spianata delle moschee, e innesca però quello che in realtà ormai era nell'aria. Tutto questo ha portato a questa seconda, che io non ho mai voluto chiamare seconda, avevo detto la nuova intifada proprio per non indicare elementi di ripetitività. Ma le differenze tra prima e seconda intifada non si limitano a questo. La prima è stata la rivolta degli scioperi ad oltranza e delle pietre contro i carri armati. L'intifada di Al-Aqsa ha visto invece anche una militarizzazione superiore in campo palestinese e l'inizio della pratica degli attentati suicidi. Anche questa è una considerazione molto giusta e penso che ci siano delle ragioni forti per differenziare queste due situazioni. Nel primo caso, proprio perché ho detto è una rivolta, come dire, istintiva, proprio a chi non vuole più accettare una condizione di invivibilità quotidiana, sono proprio quelli che sentono in casa questa disperazione, questa oppressione, i giovani, sono i ragazzi che si ribellano, anche se poi le forme organizzate sono di adulti e sono anche molto qualificanti rispetto a qualsiasi movimento di liberazione, però c'è questa componente di ribellione che proprio perché non è pensata prima e anche con elementi di lotta molto primitivi, le pietre appunto, ed è rimasta così famosa. Questa seconda intifada nasce con alcuni elementi armati di fatto. Uno perché durante gli anni che vanno fino al 2000 i palestinesi addirittura erano riusciti a guadagnarsi alcune città in cui vivevano finalmente senza i militari. Stanno passando quasi 40 anni adesso dalle posizioni militari, ne sono passati quasi altri 20 dalla prima intifada, nuove generazioni più attente, e non dimentichiamo che quello che era un movimento appena nascente nell'87, Hamas, è ormai un movimento che ha compiuto i suoi 18 anni, ha raggiunto la sua maggiore età, anche questo è molto determinato, che noi non confonderei assolutamente, però conosce l'esperienza di Hezbollah in Libano e sa quanto sia importante la resistenza armata. Quanto alla resistenza suicida, quindi al terrorismo, gli atti di terrorismo, io direi attraverso i suicidi, non sono una cosa poi né così diffusa né così immediata. Non bisogna ricordare che dal 1996 al 2000 Hamas non commette nemmeno un attentato terroristico, eppure c'è stata la strage nella caverna dei patriarchi di Hebron, una cosa tremenda, quando si lascia un medico americano determinato nella sua follia, entrare con le armi in un luogo di preghiera comune. È evidente che c'è da una parte una maggiore coscienza e una maggiore organizzazione, l'autorità nazionale palestinese ha comunque una sua esistenza anche organizzata e quindi anche militare, e in più c'è Hamas che ha maturato l'esigenza di resistere comunque in qualsiasi modo, così come in realtà la Carta delle Nazioni Unite dice: un popolo che è occupato militarmente ha diritto di opporsi con qualsiasi mezzo, e teniamo conto che il mezzo che c'è dall'altra parte teneva molto bene in conto il detto di Jabotinsky, che diceva: due occhi per un occhio e una mascella per un dente. Dopo questo lungo excursus storico, veniamo a parlare dell'attuale situazione sul campo. Lo facciamo con l'inviato di Amisnet in Cisgiordania, Lorenzo Anania, al telefono con noi dal Media Center di Hebron. Allora Lorenzo, com'è il clima nei territori occupati e come vive la gente questo anniversario? Ma il clima è decisamente un clima atteso. Nei territori occupati è cominciato per gli arabi israeliani, ma anche ovviamente per gli arabi musulmani che vivono nei territori occupati, è cominciato sabato 23 settembre il mese sacro dei musulmani, che è il Ramadan. Questo inizio di Ramadan non ha portato grandi novità per quanto riguarda lo stallo politico che si sta vivendo nei territori occupati, anzi la coincidenza con il Capodanno ebraico ha portato ad un incremento maggiore di checkpoints in tutti i territori occupati. In questi giorni, mercoledì scorso, Gaza è stata bombardata da parte dell'aviazione israeliana e si sono sentiti anche ad Hebron il rombo degli F-16 dell'esercito della Stella di Davide. Oltretutto una serie di festività religiose stanno facendo veramente salire alta la tensione. L'allarme terrorismo da parte israeliana è molto forte, e appunto soprattutto in coincidenza di questi anniversari che si stanno ripercorrendo questa settimana, appunto non solo quello della seconda intifada, ma anche come dicevamo l'inizio del Ramadan e poi l'avvento dello Yom Kippur, che non è solo una festa religiosa ebraica, ma ricorda anche la guerra tra Israele, Siria ed Egitto del 73, appunto nota nei libri di storia come la guerra dello Yom Kippur. E quindi questa serie di avvenimenti stanno sicuramente facendo salire il termometro dell'allarme terrorismo. Ci fai un quadro della situazione politica? Sono in corso scioperi dei dipendenti pubblici e si parla di governi di unità nazionale, sia pur tra mille difficoltà. Dopo la trionfale vittoria di Hamas nelle elezioni dell'inizio del 2006, i territori occupati e la striscia di Gaza vivono proprio un vero e proprio stallo politico, in quanto si sono fermati, come molti sapranno, gli aiuti internazionali, gli aiuti economici internazionali. È notizia proprio di questi giorni che 65 milioni di dollari stanno arrivando dall'Arabia Saudita e dal Qatar per pagare almeno gli stipendi dei professori. Infatti sono da quasi 7 mesi che i dipendenti pubblici non ricevono lo stipendio e si susseguono scioperi dei dipendenti pubblici, non solo quindi dei professori, però anche ovviamente dell'amministrazione in generale. Con questa boccata di ossigeno da parte saudita e da parte del Qatar per pagare gli stipendi dei professori, forse la situazione potrebbe, almeno per quanto riguarda questi dipendenti pubblici, rasserenarsi. E ricordiamo che in Palestina almeno un quinto della popolazione vive dei soldi dell'amministrazione pubblica, perché sono impiegati nell'amministrazione pubblica dell'autorità nazionale palestinese. E comunque la situazione del dialogo tra Hamas e al-Fatah rimane comunque sospesa, in quanto Hamas, che ha vinto l'elezione e quindi giustamente, democraticamente, dovrebbe avere la presidenza del Consiglio, quantomeno una maggioranza al governo, non è ovviamente ben vista dalla comunità internazionale, visto il suo radicalismo islamico e l'ostinazione a non riconoscere gli accordi di Oslo del 93 e quindi a non riconoscere da una parte Israele, però dall'altra parte anche l'autorità nazionale palestinese. E il presidente Abu Mazen sta cercando di fare questo lavoro di mediazione tra le esigenze della comunità internazionale e le esigenze di politica interna, però sembra che sia un lavoro particolarmente difficile, visto che ancora, nonostante che si sia profilata l'idea di fare questo governo internazionale, dopo che Abu Mazen è stato alla 61esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ed ha incontrato, diciamo, i principali leader occidentali, queste trattative del governo di unità nazionale si sono decisamente interrotte e le dichiarazioni di questi giorni di Hamas dicono che sì, rispetteremo gli accordi che ha siglato il presidente Abu Mazen e prima di lui, quindi Arafat e quindi le autorità dell'autorità nazionale palestinese, però rispettare gli accordi non vuol dire riconoscerli. E questa è un po' questa frase del portavoce di Hamas sintetizza un po' lo stallo politico in cui si trova adesso la situazione politica dei territori occupati e della Striscia di Gaza. I tempi della formazione del nuovo esecutivo palestinese continuano molto lentamente tra veti incrociati e nei piani di Abu Mazen sembra ormai tramontata l'era di Ismail Haniyeh, che è il leader radicale di Hamas. E proprio lui dovrebbe lasciare il posto a Samir Abu Esha, che è stato già sul ministro della pianificazione. Esha è una personalità indipendente, rispettato sia da Hamas che da Fatah, e cosa più importante sembra anche dalla comunità internazionale. Esha è un esperto di ambiente, potrebbe veramente essere lui la persona adatta a far nascere il nuovo governo di unità nazionale palestinese. Però rimane sempre il fatto che Haniyeh non vuole lasciare la poltrona di primo ministro, e quindi questo rimane forse il nodo più grande per la formazione del nuovo governo. In conclusione del nostro approfondimento sentiamo Samir Al-Qariouti, giornalista palestinese che da anni lavora in Italia, per cercare di capire quali possono essere gli scenari per uscire dallo stallo attuale e per un superamento dell'intifada, considerando anche che per arrivare alla pace è necessario un impegno da parte della comunità internazionale e un coinvolgimento di tutti gli attori di questo conflitto, che sono anche Libano e Siria. Il territorio palestinese, sia a Gaza che in Cisgiordania, sono alla fame vera e propria. Anche dopo gli sviluppi politici degli ultimi tempi, dopo le elezioni che sembravano all'inizio la soluzione migliore per tutti i problemi di questa area, invece abbiamo assistito a un accerchiamento, a un isolamento totale della Palestina come realtà sociale e politica. Le prospettive sono al momento molto molto nere, come si suol dire. La Palestina è stata isolata praticamente dal contesto delle iniziative internazionali. La ripresa c'è stata soltanto dopo che tutto il mondo ha verificato con i propri occhi ciò che è accaduto nel Libano, che cosa potrebbe essere il futuro di quest'area se la situazione in Palestina continuasse a questi ritmi. E quindi le prospettive dipendono non soltanto dal popolo palestinese, non soltanto dal governo, chiunque sia il governo lì, sia di Fatah che di Hamas, né dall'autorità nazionale palestinese, ma dipendono tutte le prospettive dalle sforze sincere della comunità internazionale per risolvere questo problema, risolverlo sul serio e non per finta. Bisogna sempre capire bene le cose come stanno. Quando la Siria parla ha un territorio occupato, e quando la Palestina parla ha un territorio occupato, quando il Libano anche parla ha ancora un territorio occupato. Chi non parla mai del territorio occupato è colui che occupa questi territori, cioè Israele. Quando Israele parla di pace, deve parlare di pace con la mentalità di uno che ha intenzione di ritirarsi da questi territori. Il problema della pace si risolve quando non c'è più occupazione. Lì gli accordi possono essere intrapresi, lì gli accordi possono essere interpretati positivamente e applicati anche per creare questa pace. La pace si crea tra due nemici, ma due nemici alle stesse condizioni. Uno che ha occupato si deve tirare, in cambio prende delle cose, che è alla base della teoria terra in cambio di pace. Ma invece stiamo assistendo a una politica che vuole tutto con la continuazione dell'occupazione della terra. L'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, che si sta dando da fare per costituire questo governo di unità nazionale, che poi non si capisce a che cosa servirebbe, con la corruzione che c'è, con tutti i difetti che ci ha avuto il precedente governo e quello ancora prima presieduto proprio da lui, e non si capisce bene a che cosa serve questo governo di unità nazionale quando la base stessa della questione è ancora come è stata anni fa. Allora, concessione del riconoscimento di Israele in cambio di che cosa? Hamas è stato molto chiaro sempre: quando ritorneranno ai confini del 67 sanciti dalle Nazioni Unite, allora si potrà stipulare anche degli accordi con Israele, non soltanto riconoscerlo, esattamente come ha fatto l'OLP negli accordi di Oslo. L'OLP ha riconosciuto Israele, ma in cambio che cosa ha ottenuto? Come stiamo vedendo, nulla. Il territorio è rioccupato, Gaza è stata evacuata ma militarmente occupata, e siamo al punto di prima. Purtroppo è la questione fondamentale che cosa ha intenzione Israele di fare. Ha intenzione soltanto di tenere questa tensione così com'è o di concedere qualche cosa? È il più forte che deve concedere e non il più debole. Quindi la soluzione del governo nazionale, secondo me, è una soluzione affrettata ma di copertura che non risolverebbe in fondo niente. Dagli studi di Amisnet è tutto. Un saluto agli ascoltatori da Khaldun, in questo momento al microfono, e da Leopoldo Calabria in regia. Hanno partecipato alla realizzazione di questo programma Monica Poddica e Lorenzo Anania, in collegamento da Hebron. Un ringraziamento ai nostri ospiti, Giancarlo Paciello e Samir Cariuti. Vi ricordo che potete ascoltare le nostre produzioni sul sito amisnet.org. A risentirci. يا قلبي لوين لحق دربك طوعني يا قلبي انسى حبك يا قلبي لوين لحق دربك طوعني يا قلبي انسى حبك قالت لي ما بريد اتعب قلبك قلت لها يا روحي تعبك راحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دفاحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دفاحة وقالي يخزي العين والخدايني تفاحة بتغار من تفاحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دفاحة بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دفاحة وقامي يخزي العين والخديني تفاحة بتغار من تفاحة